e la donna. È fondamentale sottolineare che l'essere immagine include il corpo e non solo l'anima. Si dice infatti: a immagine di Dio li creò, maschio e femmina li creò. Genesi 1:27. L'uomo è creato nella differenza sessuale. La complementarietà di uomo e donna esprime qualcosa di significativo nell'essere immagine di Dio, così come ha spiegato Giovanni Paolo II nella Mulieris Dignitatem al numero 7. L'uomo è immagine non solo individualmente, ma anche nelle sue relazioni, cioè nel suo essere rivolto all'altro, nel suo essere persona che si realizza come essere per. E ciò è fondato proprio sulla sua filiazione divina, perché in quanto immagine del Figlio, l'essere dell'uomo è tutto dal Padre e tutto per lui e per i fratelli. L'uomo, che è sulla terra l'unica creatura che Dio abbia voluto per se stesso, non può ritrovarsi pienamente se non attraverso il dono sincero di sé. Gaudium et Spes 24. Questo essere ontologicamente costituito per la relazione si rivela anche nella creazione della donna. È Dio che la crea, perché non è bene che l'uomo sia solo. Genesi 2:18. Il sonno di Adamo sottolinea che l'azione è tutta di Dio, che la donna è opera sua ed essenzialmente dono. Si potrebbe dire dono e mistero, nel senso che suscita lo stupore dell'uomo, il quale nel contemplarla scopre se stesso come chiamato all'amore. A questo proposito si tende a sottolineare molto la diversità, ma lo stupore di Adamo, che si sprigiona in quel primo complimento di un uomo ad una donna, che è Genesi 2:23, questa volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa, evidenzia contemporaneamente anche l'identità di natura e non solo la distinzione, che qui prima che fisica è personale. Il riferimento alla costola va inteso proprio nel senso di questa identità e non può portare a considerare la donna come appendice dell'uomo. In questo senso, la profondità della distinzione sessuale può essere pienamente compresa solo in una ontologia che riconosca alla relazione un ruolo non meramente accidentale, ma colga l'unità di natura e la distinzione di persone come elemento essenziale dell'immagine trinitaria. Che la relazione sia l'elemento fondamentale di Genesi 2:23 si può dedurre dalla constatazione banale che quando un bimbo vede per la prima volta una bimba, gli saltano agli occhi soprattutto le differenze. Adamo si comporta invece in modo diverso, riconoscendo in lei innanzitutto un tu per lui, un'altra come lui, ma distinta da lui, un'altra che lo fa essere se stesso e che è se stessa grazie a lui. Per questo Giovanni Paolo II ha scritto: «Questa relazione reciproca costituisce l'anima della comunione di persone che si instaura nel matrimonio e presenta una certa similitudine con l'unione delle tre persone divine». 23 aprile 1986. Ovviamente, questa dimensione trinitaria della sponsalità umana va intesa in senso analogico, perché in Dio non si ha distinzione sessuale e perché l'identità di natura in Dio non si dà a livello specifico, ma il Padre, il Figlio e lo Spirito si identificano ciascuno numericamente con l'infinita natura divina. La distinzione sessuale e la relazione di amore tra Adamo ed Eva puntano in Dio alla distinzione solo relazionale del Padre, del Figlio e dell'amore che li unisce. Tutto manifesta e realizza la vocazione all'amore dell'essere umano. La sponsalità ha un grande valore, tanto da servire, dai padri fino a Tommaso, come immagine per esprimere l'incarnazione del Verbo. Ma la filiazione è fondante e ha la priorità, perché ogni uomo è figlio, e ha il suo fondamento proprio nell'essere immagine di Dio uno e trino. Mentre a livello umano la filiazione deriva dalla sponsalità, nell'origine, in quella relazione al Creatore che costituisce il principio al quale si riferisce Gesù in Matteo 19,4, è il contrario. Ciò diventa chiaro nel mistero pasquale. Ad Adamo ed Eva, sposo e sposa, corrispondono ora Cristo, nuovo Adamo, e Maria, nuova Eva, che sono sia padre e figlia, in quanto creatore e creatura, sia figlio e madre nel loro rapporto personale. È proprio il loro mutuo essere totalmente l'uno per l'altra, l'uno dell'altra, che rivela in pienezza il senso trinitario della creazione nell'uomo eternamente pensato come figlio nel figlio. L'avvenga, fiat, di me, secondo la tua parola, verbum, di Luca 1,38, esprime la risposta di abbandono totale a Dio da parte di Maria, la quale accoglie nel proprio seno Dio che in un certo senso per primo le ha detto lo stesso, in quanto l'incarnazione dipende dal sì di lei. Si rivela così contemporaneamente il totale essere tutto dal Padre e tutto per il Padre del Figlio, che viene nel mondo per rivelarlo, e della Madre, che si affida totalmente a Lui, che nel Figlio si affida a Lei. Entrambi dicono, nell'eternità e nella storia, la mia vita sia il nome che mi hai dato. E ciò mostra anche come questo abbandono totale, questa identificazione con la relazione, non sottragga nulla all'uomo, come non implichi la perdita di alcunché nella propria umanità. Invece è esattamente nella relazione al Padre che si scopre la propria unicità. Oggi tutto ciò è di scottante attualità, perché la perdita sempre più evidente del senso del dono e del riferimento alla Trinità impedisce di comprendere la creazione e l'autentico significato dell'amore umano. Ha detto Benedetto XVI, matrimonio e famiglia non sono in realtà una costruzione sociologica casuale, frutto di particolari situazioni storiche ed economiche. Al contrario, la questione del giusto rapporto tra l'uomo e la donna affonda le sue radici dentro l'essenza più profonda dell'essere umano, e può trovare la sua risposta soltanto a partire da qui. Non può essere separata, cioè, dalla domanda antica e sempre nuova dell'uomo su se stesso: chi sono? Cosa è l'uomo? E questa domanda, a sua volta, non può essere separata dall'interrogativo su Dio: esiste Dio? E chi è Dio? Qual è veramente il suo volto? La risposta della Bibbia a questi due quesiti è unitaria e conseguenziale. L'uomo è creato ad immagine di Dio, e Dio stesso è amore. Perciò la vocazione all'amore è ciò che fa dell'uomo l'autentica immagine di Dio. Egli diventa simile a Dio nella misura in cui diventa qualcuno che ama. 6 giugno 2005. Le posizioni della Chiesa in termini di morale sessuale e concezione della famiglia, che chiaramente non obbediscono a una logica di compiacimento dell'opinione pubblica, sono fondate evidentemente su questa irrinunciabile dimensione trinitaria della creazione, che pone l'aspirazione all'amore come senso del mondo e dimensione più profonda del cuore di ogni persona. L'uomo può essere se stesso solo quando accoglie liberamente il dono, riconoscendolo come tale e rispettandone la natura. La stessa legge naturale trova nell'ontologia del dono il suo fondamento. Come non sarebbe né grata né intelligente una persona che ricevesse in regalo un abito delicato e costosissimo e lo usasse a mo' di stracci per le pulizie di casa. Così l'uomo è chiamato a rispettare il senso della natura e di se stesso, e se non lo fa, non riesce ad essere felice. Essere uomini vuol dire dunque lasciarsi abbracciare, come Maria e Gesù, vera Eva e vero Adamo, compimento e cammino perfetto dell'umanità. Per questo non si può essere uomini se non nella dimensione eucaristica, che già l'ebreo Filone aveva significativamente intuito. La vita che conviene al mondo consiste nel rendere grazie continuamente senza sosta al Padre Creatore, desiderando solo di ritornare ai propri elementi per mostrare che senza risparmiare nulla per sé, esso si offre in sacrificio nella sua interezza a Dio che l'ha creato. Quis rerum divinarum eres sit 200. La teologia della creazione, contemplata anche solo a partire dalla rivelazione veterotestamentaria come nel caso di Filone, porta a riconoscere nel continuo ringraziamento e nella libera restituzione del dono il senso del mondo, la logica più profonda in esso presente. Così anche Martin Heidegger, in un'epoca e un contesto totalmente differenti, è giunto a dire «pensare è ringraziare». In tedesco «denken ist danken», con un bellissimo gioco di parole.